Storie, storielle, storiacce. Lo vedevo personalmente all'acquisto di gioielli con un'attenzione mia ad Arcore. I più importanti dirigenti del gruppo arrivavano ad Arcore per la cena di Natale con le mogli e io provvedevo personalmente all'acquisto di gioielli con un'attenzione che risente del mio carattere di perfezionista, per cui ad ogni signora, con l'aiuto del computer, negli anni regalavo gli orecchini, il braccialetto, il girocollo, la spilla, in modo da non cadere nella ripetizione del regalo e da scegliere il tipo di gioiello in modo che ci fosse una completezza, diciamo, una specie di parure possibile tra i vari gioielli regalati negli anni. Ci sono altre celebri feste portate agli atti dei processi, sono quelle di cui parlò lo stesso Berlusconi nelle sue deposizioni spontanee in aula. Beh, queste erano fortemente celebrative, anche egli paternalista, le signore venivano senza gioielli e per essere poi incoronate come madonne da Berlusconi. Io portavo i miei gioiellini e poi se ricevo un regalo lo portavo anch'io, per le feste di Natale ho sempre portato un cadeau a Veronica, gli uomini dicevano degli orologi, ma però era questa postura così all'essere nudi, no? Davanti al re e poi farsi incoronare. Dice di averli venduti questi gioielli Stefania Ariosto per liberarsi totalmente anche dei simboli di quel passato che ora vuole accantonare del tutto. Il teste Omega ora va in pensione, ci ha annunciato, e così, come pescando dalla valigia dei ricordi, ripercorre le tappe che l'hanno portata a diventare la gola profonda della corruzione sfociata nell'affare Toghe Sporche. Un cammino che passa attraverso l'incontro con un'altra donna, il PM milanese dell'inchiesta, Ilda Boccassini. Vidi questa donna molto, molto rigorosa, e però alla fine c'era un sottofondo di grande bontà, di grande professionalità. Forse il fatto che sia stata una donna a interrogarmi ha giovato anche a che io mi aprissi di più e quindi di raccontarsi le cose come stavano, in un certo modo. Credo che questo abbia giovato moltissimo. Proprio nelle primissime dichiarazioni, ricorda ancora, immagino di sì, che cosa disse esattamente ai magistrati? Lo ricordo perfettamente, ma mi riporta tutti i verbali sottoscritti senza nulla togliere, nulla aggiungere. Lei praticamente in quelle dichiarazioni denunciò le confidenze che aveva ricevuto da Cesare Previti e di quanto lei stessa era a conoscenza di quello, certo, che avveniva a casa di Cesare Previti. Certo, certo. Di quelle feste se ne è parlato più volte durante i processi. Poi io ho letto tutti gli atti e ho letto tutto e quindi... Ecco, e di quelle feste quali immagini gli sono rimaste nella memoria a distanza di così tanto tempo? Di feste e goderezze così che si consumano ancora oggi, ma le quali poi io non partecipo più, anche perché preferisco fare altro. Sicuramente mi sono anche maturata, questa esperienza mi è maturata moltissimo. Lei parlò di feste sicuramente goderecce ed esclusive, feste in cui c'era un gran giro anche di magistrati, sì. Di magistrati c'era anche un gran giro di soldi. Esatto. Ed erano, diciamo, poi uno dei momenti in cui avvenivano questi atti di corruzione. Esattamente, esattamente. Però io vede, la cosa da quale mi dolgo è che a distanza di tanti anni, comunque questa è una consuetudine così endemica che non si è esaurita con le mie dichiarazioni, nessuno si è spaventato, perché lei vede il caso scoppiato adesso in Sud Italia, sono coinvolti ancora 4 magistrati, perché purtroppo la corruzione in Italia è endemica. Ci si immagina che atti del genere non avvengano così, appunto, alla presenza di decine di invitati ad una festa. Ma questo dipende dall'ambiente nel quale si consumano, diciamo, queste relazioni, queste interazioni, e dipende molto, perché c'è un capobranco, il capobranco è rispettato perché è supponente, perché è arrogante, perché comunque poi è un buon padre di famiglia. E il capobranco però, in questione era Cesare Previti? Beh, il capobranco è perché è un uomo duro, forte, cesarone, persona che sistemava tutto, metteva a posto tutto, e però qualche piccola nota di ribellione all'interno, non solo io, anche la sua segretaria si è ribellata, no? Gli ha testimoniato stato contro, cioè voglio dire, vedevo anche ultimamente nel caso Mediaset un ex dipendente, appunto la Cavanna mi pare che fosse, sì, se non ricordo bene, l'assistente di Bernasconi, che pure conoscevo, ha votato il sacco anche ella. Tutto avveniva con una, come se leggerezza dell'essere convinti che nessuno mai, ma tutti quanti coloro che compiono dei reati a questo livello dei colletti bianchi sono convinti di non essere mai scoperti. Anni sono passati da quelle feste e da quel mondo. Ci sono stati i processi, le condanne e le polemiche infinite. E oggi, quando tutto sta per volgere a conclusione, i toni più aspri, la rabbia più profonda, il testo Omega la conserva per la sua sfera personale e per il suo uomo di allora, Vittorio Dotti. Io accompagnavo il mio ex, che non voglio neanche, perché per me è condannato alla damnatio memoria, sono molto caustica e callida, mi sono dovute dall'interno, perché una gran parte di responsabilità è sua, e mi fermo qua, non voglio andare oltre. Io non sono nata per fare l'eroe, e né mi sento un'eroina, né lo sono mai stata. Questa circostanza, finché scattasse una molla, l'ha creata proprio l'avvocato Dotti. Colposamente o dolosamente, come io credo, comunque l'ha creata lui. Io e mio fratello avevamo un bellissimo showroom di antiquariato, sì, in via Monte Napoleone, certo, e quindi vendevamo mobili d'arte. Il mio ex fidanzato ci decise ad acquistare, con tutti gli sconti del caso, due cassettoni Mangiolini e stesse agli G16. E quindi egli, invece di consegnarmi, non so, un assegno, dei contanti, oppure, non so, pagamento a rate, quello che è, mi dette un libretto al portatore, strappolato da un altro libretto della Mondadori, vero? Che era oggetto di interesse della Guardia di Finanza, col che io, appena incassato l'importo del corrispettivo della vendita di 200 milioni, dopo 4 giorni ebbi la visita di 2 ufficiali della Guardia di Finanza e mi chiesero se questo corrispettivo della vendita fosse per caso una dazione, che fosse una mazzetta, e io risposi: guardi, io le mazzette non le prendo, io le ho viste prendere. E da lì la rabbia che è salita, perché poi c'erano anche dei precedenti, mi decisi, dico: sai cosa ti dico, Stefania, che mi sono veramente stancata, questo mondo mi disgusta, noi qua che fatichiamo a vendere, devo essere accusata di un fatto che non ho commesso e che peraltro è legittimato da fatture e da tutto. Poi mi è venuto un moto di rabbia, non è stato un moto non provocato, è stato creato da una circostanza, l'una dell'avvocato Dotti, da una serie così di argomentazioni con gli inquirenti. Ho detto, dico: ma sì, ecco, poi avevo in ufficio una serie di fotografie dietro lo studio, ho detto: i veri corruttori sono altri, andate a cercare altrove. E così mi sono imbarcata in questa storia senza fine. C'è qualcosa che con il senno di poi non rifarebbe? Nulla, non rifarei più nulla, perché il percorso è stato troppo doloroso, non perché ci debba essere un dose out death, no, questo non lo so che non ci doveva essere, però la mia doglianza oggi è che il mio sacrificio non è servito a molto. Perché ci sono ancora atti di corruzione, ma c'è molto di più, anzi la corruzione è diventata un po' più sofisticata, e quindi perché sacrificare un cittadino solo, un cittadino, una persona contro tutti? Lei si immagina una persona contro il Presidente del Consiglio, contro l'uomo più ricco d'Italia, contro l'avvocato più potente d'Italia, del Primo Ministro? Lei si rende conto quello che ho patito? Però si è arrivati a delle sentenze, si è arrivati a delle condanne. Sì, ma questo a chi giova? Ai cittadini che prendono esempio che non si deve corrompere, non si devono commettere reati, perché sennò si va in prigione? È la giustizia che in questo caso ha accertato delle responsabilità. Sì, neanche questo, come dire, le potrebbe far credere di aver fatto bene? Questo, per carità, questo lo dico, ma voglio dire, essendoci questa carenza proprio nella tutela del testimone, io sono rimasta, ma ancora oggi subisco degli stigma sociali terribili, c'è una parte della società che mi odia terribilmente. Senti ancora su di sé il peso di questo marchio? Lei immagini che io vivo poi purtroppo in un ambiente e vivo in una città dove il 99% delle persone vota Berlusconi. Ci faccia un esempio di che cosa vuol dire vivere con il marchio di essere stata il teste Omega. Vado su un cantiere, allora c'è la persona che mi dà la mano che vuole comprare un appartamento e l'altro invece dice all'imprenditore: ah, non compro perché qua c'è il teste Omega. Quindi dei danni anche di carattere, di natura oggettiva, enormi. Non so, alcuni non vogliono trattare con me perché ho lo stigma del teste Omega, eppure sono in una struttura di carattere imprenditoriale. E sono state più critiche o messaggi di solidarietà, di appoggio che ha avuto in questi anni? Più critiche. più critiche, poi alla fine io non ho sentito una donna del centro-sinistra dirmi, non so, ha bisogno di qualcosa questa donna, niente, e le parlo dal 96 ad oggi. Ha subito anche delle minacce in questi anni? Ho subito minacce, tentativi di uccisione, ho subito di tutto, di tutto. Io le dico con molta sincerità, non lo rifarei mai più. Credo che la pubblica accusa dovrà trovarsi nuove fonti di conoscenza di reati attraverso altri sistemi più sofisticati che non sono i testimoni. Esatto, okay. Dire che forse la lunga vicenda che l'ha coinvolta può aver avuto l'effetto negativo di distogliere altre persone dall'andare a denunciare delle cose? Penso di sì, perché soprattutto quello che il lavoro che hanno fatto alcuni mass media è stato devastante. Sono stata colta nei momenti più intimi della mia vita. Questo stigma si è esteso a macchia d'olio anche ai componenti della mia famiglia, mio fratello, cioè mia sorella, mia mamma, sono cose veramente molto gravi. Anche loro con ripercussioni di tipo professionale? Gravissime, perché purtroppo io sono stata stritolata da questi, proprio hanno messo in moto una macchina infernale tra il giornale Libero, Panorama e il resto del Carlino, hanno fatto di me veramente polpette, perché io dovevo essere distrutta. Da accusatrice c'è stata appunto una lunga fase in cui è stata accusata, si è detto che era un test costruito ad arte, ad orologeria. Esattamente. E quindi su questa base sono diventata, da teste, da testimone, sono diventata una vittima di questi reati che hanno commesso gli altri. Ma quando si entra nell'intimo per demolire una persona, per dire che è mio, che non ci vede, va in giro col bastone, che non è vero, tutti possono essere miopi. Io andavo in giro accompagnata con il bastone, diceva Previti, come la cieca di Sorrento, e questo non corrisponde a verità, sono semplicemente miope. Cos'è che l'ha ferita di più di tutte quelle che sono state dette sul suo conto? Mi sono state disconosciute le mie maternità, ebbi a dichiarare che avevo perso due figli, poi una terza bambina, a causa questa malattia metabolica, la mucoviscidosi, e io ne ho perso uno a 4 mesi di vita e l'altro a un anno e 8 mesi. E quindi mi fece un'intervista a Sallusti, prima era il Corriere della Sera, e gli raccontai la mia storia. Lui pose le fotografie di questi miei bambini insieme al cane. Il giorno dopo ci fu una dichiarazione del senatore contestabile, ma quella è maniaca, è pazza, non ho mai avuto figli, non è vero. Il male che mi è venuto, che pure lo conoscevo, sapeva che era vero, ho dovuto denunciare, presentare i certificati di morte ai miei figli. Questo mi duole ancora oggi, guarda, in maniera veramente terribile. Questa è la cosa che più mi ha fatto male, sì, questa ancora oggi mi duole, mi soffoca l'animo. Ma ora che il Testi Omega va in pensione, almeno dice, anche tutto questo è ormai consegnato alla storia.